Il terzo anello, ad alta voce. Omero Antonutti legge I 23 giorni della città di Alba, di Beppe Fenoglio. La mattina del primo novembre i comandanti di tutte le squadre della guarnigione furono convocati al comando piazza e poi congedati all'ora di mezzogiorno dopo aver sentito parlare di difesa a capisaldi, di massa di manovra, di collegamenti a vista e così via. Insomma, ne uscirono con le idee confuse. Ma poiché nessuno si decise a fare il primo, non tornarono sui loro passi a farsele, se possibile, chiarire. Lungo la strada di ritorno, ai singoli accantonamenti, pagarono questa conservazione di prestigio con dei tremendi interrogativi di coscienza. Due sole cose erano ben chiare, e cioè che la Repubblica avrebbe attaccato all'alba l'indomani e che avrebbe cercato di passare sul ponte sospeso di Pollenzo, quel ponte che i partigiani non erano riusciti a rompere semplicemente perché era guardato dai tedeschi che alloggiavano fin dall'armistizio in quel castello reale, in numero sufficiente per infischiarsi di tutti i partigiani delle Langhe. Il dopo pranzo, le squadre, tempestando di domande i loro capi, uscirono di città e infilarono la strada Alba-Gallo, tirando a mano dei carretti, sui quali avevano caricato le mitragliatrici e le casse delle munizioni. Si fermarono dove i capi dissero di fermarsi. Presero visione del tratto di fronte loro assegnato e, lasciateci le sentinelle, andarono a trovarsi tutti insieme sull'aia della cascina di San Casciano, che era in metà giusta delle posizioni. Su quell'aia, grande come una piazza, si trovarono insieme i 200 uomini sui quali pesò quasi interamente la battaglia di Alba. Fecero un coro di «O tu Germania che sei la più forte», celiarono in tutti i modi e senza pietà sul fatto che l'indomani era il 2 novembre, giorno dei morti, ed ebbero anche lo spettacolo. Due polacchi, disertori della Wehrmacht, e partigiani badogliani, ubriachi, marci, fecero segno a tutti di stare a vedere. Andarono a collocare due bottiglie vuote sul muretto in fondo all'aia. Sbandando, tornarono all'altro termine, puntarono i loro fucili tedeschi e le due bottiglie laggiù volarono in polvere. Tutti applaudirono e pensarono che domani, in quei mirini, ci sarebbe stata carne di fascisti. Così fecero sera e tornarono ciascuna squadra alla cascina più prossima alla rispettiva posizione. Lì cenarono a pane e salame e poi si riposarono. Per le finestre videro farsi notte di colpo e sentirono che faceva un freddo crudo. Fuori rumoreggiava il fiume. Dentro si udiva solo respirare. Il massimo rumore era quello dei zolfini sfregati per le sigarette. Il fatto è che tra loro non c'era un adulto. Quelli che avevano fatto il soldato nel Regio Esercito erano forse 5 ogni 100. Nel buio di quella vigilia di battaglia, molti di quei minorenni che, per non aver mai voluto tirare alle galline e non avevano mai sparato il fucile, si domandavano ora se sparare poteva essere complicato e se il colpo faceva male alle orecchie. Poi pensavano a quelli che aspettavano per l'indomani sul presto. Ammettevano che quelli sparare sapevano e allora si tastavano la pelle o anche solo la camicia. Poco prima di mezzanotte arrivò un portaordine del comando piazza ad avvisare che il posto di medicazione era dietro il cimitero e che il servizio sanitario lo prestavano volontariamente gli studenti albesi in medicina e farmacia. Si sentì un singhiozzo nel buio, ma mezz'ora dopo che il portaordine se n'era andato, per il fatto e la fortuna che erano tutti ragazzi, s'erano già tutti addormentati nelle stalle e sui fienili. E s'addormentò anche qualche sentinella. Thank you. La mattina del 2 novembre ci fu per sveglia un boato, verso le 4:30. I partigiani a dormire sui fienili trascurarono le scale a pioli e saltarono giù da 2 e più metri. Solo per una formalità i comandanti mandarono a vedere se c'era rimasto qualcuno addormentato. Partì una pattuglia dei più vecchi a vedere cos'era successo. Tornò che erano già tutti in trincea e riferì che un uomo, un borghese, era passato per il campo minato ed era subito saltato in aria ed era là, morto. Tutti alla notizia sorrisero e qualcuno disse che era pronto a scommettere che la Repubblica non veniva. C'era chi gli avrebbe scommesso contro, ma non ebbe il tempo perché, mentre i campanili di alba battevano 5, sul fiume scoppiò un rumore da non sapere se erano gli uomini a farlo o la terra o Dio. Il rumore che comincia le battaglie e dalla collina dei Biancardi la mitragliera partigiana prese a far pompon. Si vedevano le sue pallottole traccianti sprofondarsi nei pioppeti del fiume e niente più. I repubblicani avevano passato il fiume sul ponte sospeso di Pollenzo con tutta la fanteria e vicino al punto dove presero terra una pattuglia di 4 partigiani, stanca di far la guardia su e giù, s'era ritirato in un casotto di pesca e stavano col lume acceso a far dei giri a poker. Arrivarono loro, non corsero spiegazioni. Li ammazzarono con le carte in mano. Su Alba suonò la sirena municipale e i partigiani in trincea si irritarono per quel fracasso superfluo e gridavano verso il comando piazza, quasi da lassù potessero sentirli: «State tranquilli che abbiamo sentito! State tranquilli che siamo in allarme!» Si sentivano assai meglio che la notte e tutti attenti e seri osservavano la traiettoria della loro mitragliera. Le nuvolette delle mortaiate dei fascisti che mettevano un colpo sopra l'altro come tanti scalini per arrivare in cima alla collina dei Biancardi e facevano congetture molto sensate. Uno spettacolo che assorbiva tutta intera la loro attenzione e fu un peccato che una staffetta venisse a disturbarli col trasferimento, spiegando che non era più necessario vegliare sugli argini e che tutti dovevano adesso portarsi sulla linea di San Casciano, perpendicolare alla strada Gallo-Alba, che era evidentemente la direttrice d'attacco del nemico. Nel momento che si mossero, prese a piovere, una pioggia pesante che marcì la terra al punto che, quando arrivarono, dopo non più di 10 minuti di cammino e posarono le mitraglie, la terra cedeva sotto i 3 piedi. Quella era la linea principale e correva giusto a filo del muro di cinta della cascina di San Casciano. Dal finestrone della torretta della cascina si sporse un comandante col sul petto i binocoli e gridò ai nuovi arrivati: «Ricordatevi che non si spara se non ve lo dico io! E non fumate, razza d'incoscienti!» urlò a certuni che, pur ascoltandolo attentamente, s'erano messi a fumare con le mani a cupola sulle sigarette perché la pioggia non le marcisse. Tutti tenevano d'occhio la traiettoria della mitragliera di Villa Biancardi, convinti che stava facendo un bel lavoro e che a quest'ora i fascisti non erano già più vergini di morti. Di quando in quando studiavano il terreno davanti a loro e smuovevano di continuo i piedi per non trovarseli al momento buono imprigionati nel fango che cresceva come se avesse il lievito dentro. Di colpo la mitragliera obliquò paurosamente il tiro. Cercava di battere i piedi della sua collina e nella trincea di San Casciano un partigiano che sembrava competente disse: «Significa che le sono spuntati sotto, senza farsi notare». La mitragliera lasciò partire un rafficone lunghissimo, frenetico. Poi tacque. Dopo 2 minuti erano tutti persuasi che a Villa Biancardi era veramente finita. Nemmeno le mortaiate scoppiavano più sul fianco della collina. Thank you. Mancava poco alle 7 e il partigiano competente disse: «Ma, adesso entra in batteria la mitragliera di Castelgherlone». Tutti guardarono a Castelgherlone, una grande villa rustica sul versante a sinistra. Si vedeva la tozza canna della mitragliera sporgere d'un palmo dall'ogiva della torre. A San Casciano, quel comandante coi binocoli s'affacciò al finestrone e disse: «Tocca a noi!» E nient'altro. Ma aspettarono un pezzo. I repubblicani nemmeno si sentivano. E i partigiani, siccome non li sentivano, speravano di vederli. Ma per quanto sforzassero gli occhi tra quella pioggia e il verde, non li vedevano. Tanto che dopo un po' qualcuno, a forza di non vederseli davanti, pensò di voltarsi a guardare se per caso non gli erano già dietro. Ma che, pareva che avessero abbandonato la campagna per mettersi al riparo da quella grande acqua, perché pioveva come in principio e le armi si arrugginivano a vista d'occhio. Per i partigiani, che cominciavano a guardarsi in faccia, fu un sollievo sentire a un certo punto la mitragliera di Castelgherlone aprire il fuoco. Rafficava piuttosto spesso e i suoi traccianti cadevano piuttosto obliqui nella pianura. Dall'angolo di caduta calcolarono che la Repubblica non era più distante di 300 metri. Allora si misero bene a posto, loro e le armi, obbligando le palpebre a non battere. Guardavano fissi avanti a sé e con le orecchie tese fino al dolore aspettavano che dal finestrone, quello dei binocoli, dicesse qualcosa. Seguitò a non dire niente finché un minorenne perse la testa e sparò, e 5 o 6 altri l'imitarono, mirando nel verde all'altezza dei ginocchi di nessuno. La risposta ci fu, repentina e diretta, come il rivoltarsi d'un cane che pare che dorma e gli si pesta la coda. Una gran salva complessa e ordinata che passò alta 1 metro sulla trincea di San Casciano e si schiacciò contro il muro del cimitero. Stavolta c'erano, proprio di fronte, e si tirarono su dalla molle terra e spararono con tutte le armi, avendo i mirini accecati dal fango. Ora finalmente si vedevano, verdi e lustri come ramarri, ognuno col suo bravo elmetto, e il primo doveva essere un ufficiale, stava tutto dritto e si passava una mano sul viso per toglierne la pioggia. Un attimo dopo era ancora dritto, ma le sue 2 mani non gli bastavano più per tamponarsi il sangue che gli usciva da parecchi punti della divisa. C'erano di qua mitragliatrici americane e di là tedesche, e insieme fecero il più grande e lungo rumore che la città di Alba avesse sino allora sentito. Per circa 4 ore, per il tempo cioè che i partigiani tennero San Casciano, fischiò nei 2 sensi un vento di pallottole che scarnificò tutti gli alberi, stracciò tutte le siepi, spianò ogni canneto e fece naturalmente dei morti, ma non tanti, una cifra che non rende neanche lontanamente l'idea della battaglia. Così, dalle 7 fino alle 11 passate, quei dilettanti della trincea inchiodarono i primi fucilieri della Repubblica, uomini che sbalzavano avanti e poi s'accucciavano, e viceversa a trilli di fischietto, assaltatori ammaestrati. Un po' dopo le 11, in un riposo che sembrava si fossero preso, i fascisti, quelli giù a San Casciano, videro affacciarsi tra gli alberi di Castelgherlone un partigiano, e verso di loro faceva con le braccia segnali disperati. Come vide che da basso non lo capivano, si scaraventò giù per il pendio, mentre, forse per fermare proprio lui, i fascisti riprendevano a sparare. Quel partigiano arrivò scivoloni nel fango e disse che la Repubblica, visto che al piano non passava, s'era trasportata in collina, in faccia a Castelgherlone, preso il quale avrebbe aggirato dall'alto San Casciano. Portarsi tutti in collina e spicciarsi, adunata a Cascina Miroglio, perché Castelgherlone l'abbandonavano a momenti. Lui tornò su. I partigiani saltarono fuori dalla trincea, sgambavano giù nel fango verso la collina, senza aspettarsi l'un l'altro, e certuni scivolarono dalle spalle le cassette delle munizioni e non si fermavano a raccoglierle. Quelli che seguivano facevano finta di non vederle. Il pendio di Cascina Miroglio è ben erto. I piedi sulla terra scivolavano come sulla cera, unico appiglio l'erba fradicia. Qualcuno dei primi scivolò, perse in un attimo 10 metri, che gli erano costati 10 minuti. Finiva contro le gambe dei seguenti, oppure questi, per scansarlo, si squilibravano, così ricadevano a grappoli improperandosi. Qualcuno, provatosi 3 o 4 volte a salire e sempre riscivolato, scappò per il piano verso la città e fu perso per la difesa. Arrivarono sull'aia della Cascina vestiti e calzati di fango. A Cascina Miroglio c'era il comandante La Piazza, un telefono da campo che funzionava, e i mezzadri inebetiti dalla paura che porgevano macchinalmente secchi d'acqua da bere. Marciando, piegati in due, arrivarono per la vigna gli uomini della mitragliera di Castelgherlone, ma la grande arma non veniva con loro. L'avevano lasciata perché le si era rotto un pezzo essenziale. Gli altri, a quella vista, si sentirono stringere il cuore, come se, girando gli occhi attorno, si fossero visti in 100 in meno. Era mezzogiorno. Chi s'affacciò con le armi alle finestre, chi si postò dietro gli alberi, altri tra i filari spogli della vigna. E spararono alla Repubblica quando sbucò dal verde di Castelgherlone. Piombò una mortaiata giusto sul tetto e il comignolo si polverizzò sull'aia. Un partigiano venne via dalla finestra per andare a raccogliere sul pavimento la mezzadra che c'era cascata svenuta. Difesero Cascina Miroglio e dietro di essa la città di Alba per altre 2 ore, sotto quel fuoco e quella pioggia. Ogni quarto d'ora l'aiutante si staccava dal telefono e si sporgeva a gridare «Tenete duro, che vi arrivano i rinforzi!» Ma fino alla fine arrivarono solo per telefono. In quel medesimo giorno, a Dogliani, che è un grosso paese a 20 chilometri da Alba, c'era la fiera autunnale e in piazza ci sarà stato 1 migliaio di partigiani che sparavano nei tirasegni, taroccavano le ragazze, bevevano le bibite e riuscivano con molta facilità a non sentire il fragore della battaglia di Alba. Che così fu perduta alle ore 2 pomeridiane del giorno 2 novembre 1944. Fu il comandante La Piazza a dare il segno della ritirata. Sparò un razzo rosso che descrisse un'allegra curva in quel cielo di ghisa. Parve che anche i fascisti fossero al corrente di quel segnale, perché smisero di colpo il fuoco concentrato e lasciavano partire solo più schioppettate sperse. Tutti avevano già spallato armi e cassette, ma non si decidevano, vagabondavano per l'aia al bello scoperto. Pensavano che Alba era perduta, ma che faceva una gran differenza perderla alle 3 o alle 4 o anche più tardi, invece che alle 2. Sicché il comandante fu costretto a urlare «Ritirarsi! Ritirarsi! O ci circondano tutti!» e arrivava di corsa alle spalle dei più lenti come fanno le maestre coi bambini delle elementari. Scesero la collina, molti piangendo e molti bestemmiando, scuotendo la testa, guardavano la città che laggiù tremava come una creatura. Qualcuno, senza fermarsi, raccattò una manata di fango e se la spalmò furtivamente sulla faccia, come se non fossero già abbastanza i segni che era stata dura. È che la via della ritirata passava per dove la città dà nella campagna. Lì c'erano ancora molte case e si sperava che ci fosse gente, donne e ragazze, a vederli così. Ma quando vi sbucarono, nel viale del santuario, quant'era lungo, non c'era anima viva. E questo fu uno dei colpi più duri di quella terribile giornata. Soltanto da una portina uscì una signora di più di 50 anni. Al vederli scoppiò a piangere e diceva bravo a tutti man mano che la sorpassavano, finché da dietro un'imposta il marito la richiamò con una voce furiosa. Tagliarono il viale del santuario e, andando contro l'acqua che ruscellava giù per la stradina, attaccarono a salire la collina di Belmondo, che è il primo gradino alle Langhe. A mezza costa si fermarono e voltarono a guardar giù la città di Alba. Il campanile della cattedrale segnava 2:10. Gli arrivò fin lassù un rumore arrogante. Guardando un tratto scoperto di via Piave, videro passarci 2 carri armati e poi altri 2, ciascuno con fuori dell'orlo una testa con casco. Oh, guarda, così avevano i carri e non li hanno nemmeno adoperati. I partigiani ripresero a salire. Era spiovuto. I fascisti entrarono e andarono personalmente a suonarsi le campane.